Bene, in realtà questa sera non faremo altro che mettere un po' i puntini sulle i su quello che abbiamo cantato. Abbiamo cantato delle verità, non so se ce ne siamo resi conto, ma delle verità molto molto profonde che hanno proprio la potenza di cambiare il nostro destino. Se tu ancora oggi non conosci Gesù come personale salvatore, se Gesù è per te solo un nome o solo qualcuno di cui hai sentito parlare, ma oggi ti rendi conto che non vivi una relazione profonda, vera, quotidiana con Gesù, la verità che andremo oggi a leggere dalla parola e le verità che abbiamo oggi cantato possono cambiare il tuo destino. Se tu già conosci Gesù, allora le verità che andremo a leggere questa sera e quelle anche che abbiamo cantato, io prego che possano trasformarsi giorno dopo giorno in carne, in vita vissuta, perché c'è molto molto di più che solo dire e confessare determinate cose. C'è molto molto di più nel viverle e nel camminare in queste verità. Bene, siamo pronti? Bene, io no. No, bugia. Sì, sono molto pronta. Oggi parleremo di un argomento molto molto speciale, importante. Parleremo della gloria di Cristo. Che già a dirlo ti si riempie un po' la bocca, della gloria di Cristo. È un tema così vasto e i versetti che andremo a leggere e a meditare tutti insieme su questi versetti, in realtà solo su questi versetti si potrebbe fare una serie di predicazioni. Cioè qui invece di Filippesi si potrebbe scrivere Filippesi 2 dal 9 all'11 e predicare su questi versi per, non lo so, 3 mesi, 4 mesi, e ci sarebbe sempre da dire qualcosa in più, perché stiamo parlando della gloria di Cristo. È qualcosa che noi possiamo oggi sforzarci di capire un po' di più, che possiamo sforzarci di vivere, di ricercare un po' di più, ma che già vi dico, non finiremo mai di farlo, ok? L'incoraggiamento è quello di vivere tutta la nostra vita alla ricerca, nello sperimentare questa gloria di cui stiamo parlando. Quindi leggiamo subito questi versi, immergiamoci subito e scopriamo quello che Dio vuole dire ai nostri cuori. Noi diremo tante cose, ma io oggi e in questa settimana ho pregato, ho detto: Signore, io dirò tante cose, però tu lo sai la cosa di cui ha bisogno Antonella. Tu sai la cosa di cui ha bisogno Maria e Vito e Giovanni. Quindi per piacere, Gesù, vai oltre quelle che sono le mie parole. E quindi questa è l'aspettativa che ho, e quindi vorrei che fosse anche la vostra. Leggiamo Filippesi 2 dal 9 all'11. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Sta parlando di Gesù. Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Padre. Questi versi descrivono l'esaltazione, la gloria di Gesù, ovvero tutto l'onore, tutto il dominio, tutta la potenza, tutta la bellezza, tutta l'autorità che Dio Padre ha dato a Dio Figlio alla luce di quello che era stato il sacrificio di Gesù. Dio Padre ha ricoperto di gloria, di autorità, di bellezza, eccetera, eccetera, Dio Figlio alla luce di quello che Gesù aveva fatto per me e per te, cioè morire e resuscitare dalla morte per il perdono dei nostri peccati, affinché noi credessimo in Lui e potessimo avere vita eterna. E questo ci porta al primo dei due punti di questa nostra riflessione. Sì, avete capito bene, sono due e non tre. Cioè, questo è il mio primo messaggio, che ha due punti, però diciamo che erano più che sufficienti, ve lo posso assicurare. Il primo punto, la gloria è la risposta di Dio all'umiltà di Gesù. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Questo perciò è fondamentale per capire tutto il resto. Dobbiamo soffermarci e capire questo perciò a che cosa si riferisce. E ci viene facile questa volta perché ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa. Vi ricordate, ha predicato mio padre sia la mattina che la sera e ha predicato sull'umiltà di Cristo. Bene, questo perciò fa da ponte tra quello che Gesù ha fatto e quello che è stata la risposta del Padre. Alla domanda che certamente tu ti stai chiedendo in questo momento, se non te lo stai chiedendo, ce la chiediamo insieme adesso. Ma perché? Perché Gesù è stato sovranamente innalzato? Perché? C'è solo una risposta, bella, secca, precisa. Gesù è stato innalzato da Dio Padre perché, essendo Dio uomo e Dio, Dio figlio al 100%, è stato umile. Perché Gesù è stato innalzato? Perché Gesù ha ubbidito, perché Gesù si è umiliato, perché Gesù si è dato per te e per me. L'umiltà, l'ubbidienza di Gesù ha spinto Dio ad innalzarlo. Dio Padre ha elevato Dio Figlio, che si fece uomo, dandogli una gloria, un dominio, una supremazia senza pari. Da una gloria che già c'era, perché non è che Gesù era un semplice uomo, no, Gesù è stato uomo e Dio al 100% in un unico momento. E questo, Chiesa, lo possiamo capire fino a un certo punto. È una questione di fede, o ci crediamo o non ci crediamo, però la Bibbia lo dice, e quindi noi come Chiesa, che è fondata sulla verità scritturale, ci crediamo. Amen? Benissimo, quindi da una gloria preesistente Dio ha elevato Gesù a una gloria senza pari, a una gloria superiore, a una gloria immensa che noi possiamo comprendere solo fino ad un certo punto. Perché? Da dove parte tutto questo? Dall'umiltà. Dio ha elevato a una gloria superiore Gesù perché Gesù è stato umile. E l'umiltà di Gesù è stata così perfetta, così completa, che si può vedere la nascita di Gesù e parla di umiltà. Si può vedere la vita di Gesù e la vita parla di umiltà. Si può vedere la morte di Gesù e quella morte, che di cosa parla se non di umiltà? Ne abbiamo parlato, ma io voglio soffermarmi giusto ancora un po' su questo, su quanto Gesù è stato umile per me e per te, per la mia salvezza eterna e per la tua. Gesù è stato umile quando, essendo in forma di Dio, ha preso forma di uomo. Ora, questa forma, dal greco, il termine greco è morfo, da dove viene morfologia. Non vi sto qui a spiegare nei dettagli, però questa forma, questo morfo sta ad indicare l'essenza, la natura che non può cambiare. Per esempio, la mia e la tua morfo, è la mia e la tua natura è che siamo umani. Allora, siamo bambini, poi cresciamo, poi diventiamo adulti, poi diventiamo maturi, poi diventiamo i nuovi giovani. Però, quindi la forma esteriore cambia, ma la natura è la stessa. È giusto? La natura è la stessa. Gesù era di natura, di forma, Dio. Al 100%. E ha preso poi forma, natura, al 100% di uomo. Ha lasciato la gloria, quella preesistente che c'è sempre stata, l'ha lasciata. Ha lasciato l'adorazione degli angeli, ha lasciato il suo dominio, ha lasciato la sua autorità per farsi uomo. Ha lasciato i privilegi della sua deità, le prerogative di essere Dio, le ha lasciate tutte e si è fatto uomo. Pensate, ha avuto bisogno di essere accudito come un bimbo. Il pane della vita, Gesù ha detto che lui è il pane della vita, ha avuto bisogno che qualcuno gli desse da mangiare per non morire di fame. L'acqua che disseta e non fa più avere sete, ha sofferto la sete per 40 giorni nel deserto. Perché l'ha fatto? Per me e per te. Si è abbassato da una gloria, si è abbassato. E non ha preso solo forma di uomo ordinario, forma di un sovrano, di una persona influente, di un qualcuno che quando entrava nella stanza tutti erano riverenti. No, che c'è scritto? Prendendo forma di servo. Tutto quello che Gesù ha fatto, i suoi miracoli, il fatto che toccava, si avvicinava a persone poco raccomandabili, le sue parole, la sua obbedienza al Padre, tutto parla di umiltà. Da una gloria è sceso, si è abbassato ed è per questo che Dio lo ha esaltato, lo ha elevato. Gesù da Dio è diventato uomo, da uomo è diventato servo, da servo è diventato sacrificio per tutti. Dio, Gesù, ha ubbidito e poi ha servito e poi si è sacrificato e poi è morto. Sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù alla morte, non poteva più andare più giù, era il punto più basso. Ma la croce, la morte, lo sappiamo che non è la fine della storia. La croce ha cambiato la storia, ma non è la fine. E la croce, come ha cambiato la storia della mia vita, oggi può cambiare la storia e il destino della tua vita. C'è un perciò. C'è una seconda parte. C'è una continua. Che cos'è questa continua? È che Dio lo ha sovranamente innalzato, lo ha esaltato, non l'ha lasciato lì, ma lo ha resuscitato. Ebrei 2:9 dice questo: vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, stiamo parlando di Gesù, cioè Gesù, come lo vediamo ora? Lo vediamo coronato di gloria e di onore, che c'è scritto a motivo, a causa. Lo vediamo coronato di gloria ed onore perché ha sofferto, è morto, affinché non dovessimo farlo noi. Gesù non è stato sovranamente innalzato perché si è fatto rispettare. Non è stato sovranamente innalzato per la sua fama, per i suoi miracoli, per il suo ministero. Dio lo ha elevato, facendolo sedere alla destra del Padre, perché Gesù è stato ubbidiente, perché ha scelto di fare la volontà del Padre. È stato umile. E sapete come l'umiltà di Gesù l'ha fatta andare più in basso, e ancora più in basso, e ancora più in basso, e più basso ancora? Così è l'esaltazione. L'esaltazione si rivela in di gloria in gloria, di potenza in potenza. E lo vediamo. L'esaltazione di Dio è la diretta conseguenza dell'umiltà di Dio Figlio, di Gesù. L'umiltà di Gesù ha fatto sì che lui fosse messo a morte. Ma l'esaltazione del Padre non ha lasciato Gesù lì, ma l'ha fatto risorgere. La risurrezione. Gesù è vivo. Gesù è la speranza. È una piccola parentesi. Se neanche la morte è stata un ostacolo per Gesù, se anche dopo la morte c'è stata una speranza, io posso dirti che c'è speranza per la tua vita. Davanti a ogni situazione, davanti a ogni tempesta, davanti a ogni problematica, c'è speranza, perché neanche la morte ha tenuto Gesù fermo. È stato esaltato, è stato resuscitato. L'umiltà di Gesù è stato umile e quindi si è fatto appendere, inchiodare ad un legno. Non si poteva muovere. Ma Dio lo ha resuscitato, sì, ma lo ha anche fatto ascendere al Padre. Vedete quanto l'esaltazione va di gloria in gloria? Marco 16, 19 dice: il Signore Gesù, dunque, dopo aver parlato ai discepoli, fu elevato in cielo e sedette alla destra del Padre. Il fatto che Gesù sia seduto oggi ancora alla destra del Padre significa che non c'è posto più alto, è l'onore più alto. La destra del Padre, in modo particolare di Dio, in tutta la Bibbia e in modo particolare nel Vecchio Testamento, indica forza, indica autorità e indica benedizione. Gesù è seduto alla destra del Padre e questo significa che Gesù ha la stessa forza, la stessa autorità e la stessa benedizione per i suoi figli. Quando ci viene detto no, Gesù era solo un profeta, è questa la verità. È con questo che possiamo dare una possibilità, che questo diventi rivelazione a chi ancora non ce l'ha avuta questa rivelazione. 1 Pietro 3,29, Gesù Cristo è salito al cielo ed è alla destra del Padre, di Dio, e gli angeli, le autorità e le potenze gli sono sottomessi. Questo è il nostro Signore. Questo è il Gesù che noi adoriamo. Insieme come chiesa, da soli a casa nostra, questo è Gesù. È per questo che merita tutta la lode. È per questo che l'unica cosa che gli possiamo dire è: alleluia, sei così grande, tutto ti è sottomesso. Voglio esserti sottomesso anch'io. L'umiltà di Gesù l'ha portato a farsi trattare come il peggiore dei criminali, umiliato e maltrattato. Invece Dio l'ha resuscitato, l'ha fatto ascendere e ora gli dà il dominio su ogni cosa. Il fatto che Gesù è seduto alla destra del Padre, e io ve lo dico perché queste sono frasi che noi diciamo sempre, però quando le capiamo fino in fondo, assumono tutto un altro valore. È vero? Il fatto che Gesù è seduto alla destra del Padre vuol dire che è re, che lui governa, che lui è sovrano. Ricordiamo le sue parole, prima ancora di ascendere: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Questo è il nostro Dio. E la Bibbia ci dice chiaramente che Gesù governerà su tutte le nazioni. In Apocalisse 19 vediamo Gesù che è chiamato Re dei Re e Signore dei Signori, che governerà le nazioni. Lui è il destinatario della nostra adorazione per questo, per tanti motivi, anche per questo. Ricordiamocelo quando non ci va di alzare le mani. Ricordiamocelo quando non ci va di venire in chiesa per adorare Dio. Ricordiamocelo. È questo il Signore che stiamo adorando. E Lui è degno che alziamo le mani, che le battiamo, che gridiamo a squarciagola, che esprimiamo con il nostro fisico, con la nostra voce, quello che proviamo per Lui. Lui è degno. La Bibbia lo dice. L'umiltà di Gesù l'ha portato a tacere. C'è scritto in Isaia 50, Isaia, aiutatemi che c'ho un vuoto, 54, che davanti a tutte le offese lui ha taciuto. Ma ora Gesù parla, e parla come? Il fatto che lui è seduto alla destra del Padre vuol dire anche che lui adesso, alla luce del sacrificio che ha fatto per me e per te, siccome la morte non l'ha potuto trattenere, siccome è stato risorto, lui oggi intercede per me e per te. Lui oggi è il sommo sacerdote. È stato risorto. Dio l'ha fatto ascendere al Padre. Gli ha dato il dominio. L'ha fatto sedere alla destra del Padre e lì c'è Gesù che intercede per noi. Ebrei 7 dice: perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. In Romani 8 c'è scritto: Gesù è alla destra di Dio e intercede per noi. E questo è qui che troviamo proprio la spiegazione del fatto che da una gloria preesistente, dopo l'umiliazione, ci sia ora una gloria ancora più grande. Perché per il fatto che Gesù è stato umile, per il fatto che Gesù si è abbassato, che è morto per noi, ora Lui può essere l'unico mezzo di salvezza per te e per me. Perché solo Lui è morto ed è risorto. Prima non era ancora né morto né risorto. Capite cosa vi voglio dire? Capite il passaggio da una gloria che già c'era, una sottomissione assoluta, e adesso l'esaltazione più alta. E apro un'altra parentesi. Se Gesù, in base a quello che c'è scritto, intercede per te e per me, vuol dire che lui mette una buona parola davanti a Dio Padre. Lui mette una buona parola per me e per te. Che cosa può andare storto? Di che cosa ci preoccupiamo? Quando qualcuno dice: ehi, sto pregando per te, noi ci sentiamo belli, incoraggiati. Grazie, fratello, fallo di più. Gesù sta pregando per te e per me. Cioè, che cosa può andare storto? L'ultima parola ce l'ha Lui. E Lui soltanto. Sii incoraggiata, Chiesa. Il Re dei Re, il Signore dei Signori, intercede per te e per me davanti al Padre. E tu non ti senti speciale. E tu non ti senti visto. C'è di più. Siete pronti? Questo è ancora il primo punto. Mi perdonate? Ok. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. E qui abbiamo capito che significa questo fatto, più o meno abbiamo capito che significa questo fatto. E gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Ma di che nome si sta parlando qui? Ci viene subito in mente, beh, Gesù. Qual è il nome? Però pensate insieme a me, Chiesa. Gesù è il nome che Maria e Giuseppe hanno dato a questo bambino che si sono trovati perché l'angelo Gabriele ha detto lo chiamerete Gesù. Cioè noi oggi sentiamo Gesù e pensiamo a Gesù il Signore. 2000 anni fa Gesù era il nostro Vito, il nostro Antonio, il nostro Nicola. Era un nome molto comune, scusami, però il tuo nome è comune. Ecco perché c'era Gesù di Nazareth, per distinguerlo da Gesù di Capernaum, da Gesù di Betlemme, Gesù il figlio del carpentiere, perché ce n'erano tanti di Gesù. Quindi c'è qualcosa di più profondo. Qui il nome che Dio, quando ha esaltato Dio figlio, ha dato, gli ha dato, è il nome di Gesù, il Signore. C'è scritto, non è al nome Gesù che si inchineranno, che ogni ginocchio si chinerà. Non è al nome Gesù, non è il nome Gesù che ogni lingua confesserà. No, è il nome di Gesù che è il Signore. Capite? Il Signore, Kurios, il Signore vuol dire che Lui ha autorità, il Signore vuol dire che Lui è il capo, che Lui è il padrone. Questo vuol dire che Gesù è il Signore. E questi versi, ci sarebbe così tanto da dire, però questi versi che stiamo leggendo echeggiano, riprendono il verso in Isaia 45 che dice ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua giurerà per me. Chi è questo me? Siamo nel Vecchio Testamento, siamo in Isaia. Chi è questo me? Dio, Yahweh. Qua Paolo sta dicendo che Gesù è Dio con la stessa autorità, con la stessa natura, è il Signore, è il Signore. E davanti a questo nome, davanti al Signore, ogni ginocchio si chinerà e ogni lingua confesserà il Signore. L'obiettivo dell'esaltazione è l'adorazione. Perché Gesù è stato innalzato? Perché è stato umile. Qual è la conseguenza di questa esaltazione? Che noi lo adoriamo. Questo è. Che noi l'adoriamo, che noi ci sottomettiamo a Lui e che la nostra sottomissione sia completa, sia fisica, ogni ginocchio si chinerà, sia verbale, ogni lingua confesserà. Chi è Gesù per te? Chi è Gesù per me? Perché Gesù può essere Cioè, Gesù è, ma noi possiamo trattare, possiamo approcciarci a Gesù come al Signore, che merita tutta la nostra sottomissione, ubbidienza, adorazione, eccetera, eccetera. Oppure Gesù per noi può essere l'amicone. L'amicone. Che non è che noi lo seguiamo, è che Lui ci deve seguire. È il nostro amicone che ascoltiamo e che seguiamo quando la sua volontà si allinea alla nostra. Che fino a quando ascolta le mie preghiere, le esaudisce e fa anche oltre di quello che io mai potrei immaginare e chiedere, allora va tutto bene. Quando invece non è così, la storia cambia. Se trattiamo Gesù come il nostro amico del cuore e non come il Signore dei Signori, il Re dei Re. Chi è Gesù per noi? È Lui la mia autorità? È Lui il capo della mia vita? Che una cosa dice e quella è? Oppure la mia fonte personale di soluzioni? Che fino a quando la vita abbondante che Gesù è venuto a darci si allinea, ascoltatemi bene, si allinea con la mia visione di abbondanza, allora ok. Però quando quella vita abbondante implica ubbidienza, implica rinuncia, implica il lasciare quel vizio, il lasciare quel peccato, lasciare la sigaretta, lasciare quei video che non devi vedere, lasciare quello che ti distanzia dalla santità di Dio, lasciare tutto questo, ci sarà ancora lode sulle mie labbra? Dio o è il Signore o non lo è. Ho sbagliato, perché Dio è il Signore, Gesù è il Signore, ma noi possiamo vivere la nostra vita con Lui o riconoscendo e abbracciando la sua supremazia completamente, oppure vuol dire che siamo tiepidi e ci stiamo privando di quello che Gesù veramente ci vuole dare, che anche se implica sofferenza è il meglio. Gesù ha la supremazia sulla nostra vita? Riflettiamo sulle parole che ogni giorno diciamo quando preghiamo. Tu come incominci la tua preghiera? C'è chi la incomincia Padre, c'è chi la incomincia Gesù, c'è chi la incomincia Signore Gesù. Allora, stasera, quando vai a dormire e preghi prima di dormire e dici Signore Gesù, fermati. Che significa? Che cosa stai dicendo? Perché quel Signore Gesù non è un titolo di riverenza, perché lo rispettiamo. Non è solo quello. Signore Gesù è un riconoscere il dominio che Gesù ha sulla nostra vita. È un riconoscere l'autorità che Gesù ha sulla nostra vita. È un po' come dire, prima ancora di continuare la preghiera, perché noi di solito, Signore Gesù, ti prego per questo, per quello, Signore Gesù, mi fermo, io sto dicendo, prima di continuare la mia preghiera, non la mia volontà, ma la tua sia fatta, perché non sei il mio amicone, sei il mio Signore e non sei tu che devi seguire me, sono io che devo seguire te. Dobbiamo riflettere, è vero? Questo dà un peso totalmente diverso alle nostre preghiere, cioè io prego che lo dia. Mamma, perché dobbiamo avere tutta questa sottomissione, questa... l'abbiamo sentito. Noi siamo umili, l'abbiamo sentito la settimana scorsa, noi siamo umili perché amiamo Gesù. Quello è. Però io vi voglio dare una ragione ulteriore. Noi, e questo è il secondo punto e ultimo, non ce n'è un terzo. La gloria, abbiamo detto che la gloria è la risposta di Dio all'umiltà di Gesù. Secondo punto, perché dobbiamo essere umili? Perché la gloria è la risposta di Dio alla nostra umiltà. Non ci dimentichiamo che Paolo sta incoraggiando la Chiesa a Filippi ad avere la stessa mentalità di Cristo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che era anche in Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non si aggrappò, eccetera, eccetera. Però il punto, l'obiettivo di Paolo era dire ai Filippi: abbassatevi come Gesù ha fatto e Dio vi innalzerà come ha innalzato il Figlio. Quando ci umiliamo, ubbidiamo, facciamo quella rinuncia, lasciamo quel peccato, quando ci sottomettiamo alla volontà di Dio, il perciò dal quale abbiamo incominciato diventa nostro anche. Questo perciò può diventare il tuo, il mio, il nostro. E questo non lo dico io, lo dice la Bibbia. Molto velocemente, Giacomo 4 al versetto 10 dice: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi... Uno Pietro 5, dal 5 al 7: e tutti rivestitevi, tra l'altro questi sono dei comandi, cioè non è che se vuoi rivesti, no, è un comando. E tutti rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri. E l'abbiamo capito che significa. Paolo ce l'ha spiegato. Vuol dire stimare gli altri più di noi stessi. Vuol dire non fare nulla per il nostro interesse. Vuol dire abbassarsi per poi essere esaltati, non dagli altri, ma da Dio. Tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. Perché? Perché Dio resiste i superbi, ma dà grazia a chi? Agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Per piacere, Chiesa, smettiamola di cercare l'approvazione degli altri o di cercare l'approvazione di noi stessi. Devo arrivare prima io. I miei meriti devono essere riconosciuti. A me questo mi spetta di diritto. Non cerchiamo l'approvazione degli altri, nella nostra, ma cerchiamo e aspettiamo l'esaltazione di Dio, che al tempo giusto arriverà. Perché la Bibbia lo dice. Arriverà su questa terra, forse, ma certamente arriverà quando noi saremo glorificati, esaltati davanti a Dio per l'eternità. Questa è una certezza. La parola dice che Dio soccorre l'umile. Dio ascolta gli umili. Dio è vicino agli umili. E poi se volete tutti i versetti di riferimento potete venire da me e io ve li mando con un'email. Vale la pena essere umili. Vale la pena. È difficile, sì, ma vale la pena. Come Gesù è stato umile e si è abbassato e Dio lo ha innalzato, questo perciò vale anche per noi. Umiliamoci, ubbidiamo, serviamo e poi aspettiamo che Dio a suo tempo ci esalti. L'abbiamo detto, l'umiltà è una scelta ed è anche un percorso. È vero, ve lo ricordate? E noi la settimana scorsa come chiesa abbiamo fatto delle scelte. Io le ho viste le mani che si sono alzate. Io stessa ho alzato la mano. Abbiamo fatto delle scelte per essere umili, per abbassarci come Gesù ha fatto. E oggi abbiamo aggiunto un'ulteriore verità, che di conseguenza a quell'umiltà c'è Dio che ci esalta. In quel percorso di umiltà, l'ultima cosa che vi voglio dire è che noi non siamo soli, perché Gesù, nel suo essere totalmente uomo, è il nostro modello. Noi possiamo vedere quello che ha fatto Gesù e replicarlo. Ma siccome non siamo Gesù, Gesù non è solo il nostro modello, ma è anche la nostra risorsa, è anche colui che ci dà la forza. Perché? Perché Gesù soccorre l'umile, perché Gesù ascolta l'umile, perché Gesù è vicino all'umile. Quindi quello di oggi vuole essere un incoraggiamento a non dimenticare la scelta o le scelte che abbiamo fatto la settimana scorsa, ma a continuare questo percorso aggrappandoci a Gesù, dicendo: Gesù, io come te voglio essere, sei il mio modello, però non ci riesco, ti prego aiutami, perché tu sei la mia risorsa e so che vivendo questo tipo di vita forse gli altri non mi riconosceranno, forse gli altri non mi daranno quello che merito. Ma tu sì, Dio, tu mi esalti in questa vita o nella prossima, che è più importante tra l'altro. Sei incoraggiata, Chiesa? Io sì, perché so quello che devo fare, so dove voglio andare e so che non sono da sola. Ci alziamo. Signore Gesù, tu sei il nostro Signore. E noi la prima cosa che vogliamo fare è quella di seguirti e riconoscere che tu sei il capo della nostra vita, che tu sei il Signore, il padrone della nostra vita e vogliamo seguirti. Vogliamo che la nostra volontà sia allineata alla tua. E perdonaci Signore, se troppe volte invertiamo l'ordine. Insegnaci, Gesù, ad adorarti come tu veramente meriti, ad adorarti non solo con i canti, ma con la nostra preghiera, con la nostra meditazione della parola, con la nostra santità, con le scelte integre, con le scelte di purezza, con le scelte radicali. Che la nostra vita possa essere un atto di adorazione a te, perché tu, Gesù, tu, Signore, sei esaltato. Sei innalzato, sei l'autorità ultima e meriti la nostra adorazione. Possiamo non avere tanto, ma ti vogliamo gridare alleluia. È l'unica cosa che abbiamo, ma vogliamo lodare te. Alleluia, Signore. Alleluia. Sei il nostro Re. Grazie Gesù. nel canto che stiamo per innalzare, io ti prego, Chiesa, non ti distrarre. Datti il tempo di digerire tutto questo. E conferma le scelte che hai fatto. Se non le hai fatte, oggi hai un'ulteriore occasione per dire: non voglio più fare così. Non voglio più macchiarmi di questi peccati. Ma voglio seguire l'esempio di Gesù. Voglio ubbidire. Voglio essere umile. E chiedi a Gesù di aiutarti. Amen.